risposta. Non sento più la riscossa. Non so se è un vento che bussa, però neppure aspetto che mi dia la scossa. Non faccio più resistenza. Non che abbia molta importanza. Nell'infinita lentezza che scava la mia fossa, non sento l'amarezza. E forse siamo alla frutta. Non guardo più nella cesta. Ma un fatuo fumo ricorda appena che resta solo un piatto di questa mia minestra. Scalda. Non canto più la mia vittoria, non sento più pendio mal d'aria, sia vera gloria o un'ingiustizia rara. Non metto più le mani in tasca, non c'è futuro in tanta corsa. Sia una batosta o un'occasione persa, non mi sposta, però in compenso il tempo se la spassa. Non piazzo più una scommessa e non sai quanto mi costa, finché la gioia è la stessa, non temo che ora il sangue possa arrivare in testa.